E allora buon pomeriggio a tutti e a tutte, la vostra radio è sempre sintonizzata su 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come te sbagli? E allora, come avevamo annunciato giovedì scorso, questo giovedì abbiamo un ospite, è venuto a trovarci Giovanni Canitano, fotografo dei musicisti, delle star, fotografo internazionale, possiamo dire così, nostrano ma internazionale. Ciao Giovanni. Ciao a tutti, buonasera, grazie per avermi invitato. Senti, allora, tu ci hai portato la scaletta musicale, come primo brano hai scelto un brano di Bruce Springsteen, una versione Purple Rain. Sì, l'omaggio che ha fatto Bruce quando siamo andati successivamente Prince, e anche se Bruce non è propriamente tema della nostra trasmissione, però mi sembrava assolutamente doveroso. Never meant to call you any sorrow. Never meant to cause you any pain. I only wanted to see you laughing. Only wanted to see you laughing in my purple rain. Purple rain, purple rain. Never wanna be your weekend lover. Only wanna be. Senti, innanzitutto dobbiamo dare la notizia che è stato raggiunto la somma del crowdfunding del ripetitore della radio. Eh sì, lo possiamo dire che Radio Onda Rossa è sempre di più la radio di chi se l'ascolta, e quindi insomma questo crowdfunding, e c'è anche la festa stasera al Cinema Palazzo, appunto per ringraziare tutti quanti voi che avete contribuito a salvare, lo possiamo dire, questa radio, e quindi ad avere un nuovo trasmettitore. E anche noi di Attica Blues abbiamo qualche sorpresa, ma che sveleremo giovedì prossimo. Insomma, abbiamo anche noi realizzato qualcosa per ringraziarvi. Senti, allora Giovanni, introduciti da te. Io ho detto fotografo delle star, fotografo dei musicisti, però è un po' sminuente, diciamo. Tu che cosa fai nella vita? No, è quello che ho fatto anche, nel senso che vabbè, tanti anni fa è incominciato che la passione della musica e quella della fotografia si sono incrociate, per cui diciamo quando i tempi erano diversi, quando lo show business non era quello di adesso, sono partito macchina al collo a iniziare a fotografare i musicisti, e si poteva fotografare tutti e molto bene, diciamo, quindi non era il 1950, però insomma l'80 sì, quindi... Che poi non solo musicisti ma anche attori, insomma. E... Sì, però la storia è partita con la musica, nel senso che io ho incominciato a fare le foto perché ero appassionato di musica e quindi volevo andare a vedere tutti i concerti e fotografarli, e quindi diciamo da quello che è successo nei primi 80 in poi ho seguito tutto, a parte i tour delle persone. Qui abbiamo sentito Bruce, perché appunto dall'80 in poi non ho perso un tour, non ho perso una battuta, diciamo, però come lui anche di tanti altri, quindi diciamo a questo punto ho visto un po' la storia di quello che è successo in questi ultimi anni. Chiaramente qualche artista lo segui di più, qualcuno di meno. Poi per un fotografo italiano seguire gli artisti stranieri vuol dire stare quasi sempre fuori, perché poi adesso abbiamo un sacco di tournée di stranieri in Italia, ma all'inizio in Italia non si vedeva niente. Per esempio Springsteen, prima di arrivare, è venuto nell'85, ha fatto una data sola, in Europa ne ha fatte 40, quindi bisognava viaggiare, diciamo, andare a vedere in giro quello che succedeva. Però è stato bello, insomma, nel senso, non abbiamo visto proprio Woodstock, però insomma una discesa di quello, a parte l'inizio di tutti i gruppi, cioè i Clash l'ho visti che non sapeva nessuno chi erano, cioè quel mondo là l'ho visto dall'inizio, però anche insomma quelli che negli 80 erano vecchietti già, però che insomma che se la battevano, l'ho visto. Ho visto, per esempio, sono stato a Monterey Pop Festival del 79, che era il decennale di quello vero, per cui insomma c'era il mondo, c'erano i canneti, c'erano tutti. E tra l'altro ci hai portato una scaletta meravigliosa con tantissimi artisti, e sono tutti artisti che tu hai fotografato in qualche modo, quindi avrai una... Più o meno chi a destra e chi a sinistra, però più o meno sono tutti artisti che ho fotografato, e poi ognuno c'ha storie infinite, nel senso che per esempio adesso il prossimo pezzo, per esempio, è di Muddy Waters, che era il mio idolo assoluto, però dovete pensare che mondo era, nel senso che non c'erano video, ecco, infatti non c'era radio, perché noi sentivamo solo Per voi giovani fatta da Massarini il pomeriggio, come no, che era l'unica trasmissione di pop rock, per cui tu quando avevi un idolo sentivi dischi e basta, e te li andavi a comprare magari nei negozi che importavano roba strana. Quindi immagina te trovarsi nell'80 in America a vedere il concerto di Muddy Waters, che non avevi manco mai visto, esatto, che non sapevi neanche com'era, no? Forse cioè, probabilmente foto, del disco pure, e quindi diciamo era una roba che ti segnava qualche mese di vita, esatto, come adesso che tu vedi prima di andare al concerto e già sai tutto, no? E quindi questo era forte. Muddy, vabbè, è un bluesman fondamentale, quello che ha dato il nome ai Rolling Stones, quindi insomma diciamo che l'ha fatta la parte. Rolling Stones che tu hai fotografato, naturalmente. Pure gli Stones l'ho visto un certo numero di volte. L'ho visto la prima, in Italia erano venuti nell'82, però io l'ho già visti da almeno 3 anni prima, ho visto l'inizio del tour, insomma. E poi vabbè, nei tempi moderni tutto, cioè uno ha seguito tutto fatto. Sono andato a vedere l'ultima data del tour, questo che c'è No Fit adesso in giro a Parigi, perché l'hanno fatta in un posto fantastico, mentre invece a Lucca era discutibile. Anche al circo, io l'ho visto al Circo Massimo, lì il contesto era bellissimo in realtà. Noi al Circo Massimo abbiamo fatto una cosa carina, abbiamo fatto le foto, abbiamo fatto un time lapse, l'abbiamo mandato sul sito di Repubblica e c'era chiesto il sito dei Rolling Stones, c'era scritto se per favore lo potevano usare anche loro, quindi ci siamo levati belle soddisfazioni. Quando venite a Roma sappiate che siete ben sistemati. Allora ci ascoltiamo subito Muddy Waters a questo punto, direi anche di ascoltarci un po'. No, io una cosa ti volevo chiedere su Bruce Springsteen invece, ma tu hai pubblicato vari libri nella tua carriera, quanti? Sì, fino adesso direi 5, sempre in collaborazione con Ermanno Labianca, che è il giornalista con cui diciamo abbiamo seguito Bruce negli ultimi 40 anni, e adesso c'è in preparazione l'ultimo, che dovrebbe vedere la luce in questo 2018, credo prima di Natale, che è un po' il riassunto di tutti questi anni di corsa dietro a Bruce, ricordandoci che Springsteen sta suonando 5 giorni la settimana in un locale per 700 persone a Broadway, e che farà più di 170 date previste, tutte di fila, 5 giorni sabato e domenica di riposo, 5 giorni sabato e domenica di riposo per 8 mesi e adesso forse anche 12, quindi è un personaggio un po' particolare. Quindi un libro su Springsteen proprio. Un libro su Springsteen, proprio su Bruce, per maniaci assolutamente, solo e soltanto Bruce. Cioè, no, diciamo che non so se una persona normale lo può sopportare, perché ci saranno tipo 400 foto di Springsteen dall'inizio, però molto circostanziate. Abbiamo fatto anche una cosa carina, abbiamo fatto un viaggio nelle terre springsteeniane a fotografare tutti i luoghi citati dalle canzoni, che sono molto evocativi, hanno un grandissimo potere evocativo sul quale io non avrei girato, invece dopo averlo fatto l'ho realizzato. Quindi c'è l'albero su cui Bruce tirava le freccette da piccolo, o la porta del locale ormai diroccato in cui si sono incontrati loro per la prima volta personale, cioè una robettina profonda, però molto carino, molto molto figo. C'è anche il palo della strada che si chiama E Street, da cui ha preso il nome la E Street, proprio il cartello stradale. Allora passiamo a Muddy Waters. Come abbiamo detto, tu l'hai fotografato nei tempi che furono, nel 79, quando? Sì, anche prima, dal 77 fino a quando è campato, nell'81. Sì, Muddy era veramente un'altra stoffa di uomo, diciamo, un altro personaggio. Quindi ci avrai l'aneddoto pure su Muddy Waters. No, su Muddy c'è una storiella che sembra più una trama di un film, però giuro che è vera, perché io, diciamo, avevo già visto nell'80 tantissimi dei miei idoli, ma Muddy non ero mai riuscito a vederlo, ed ero in America e stavo a Brooklyn in poltrona tipo alle 6 del pomeriggio a casa di amici, e leggo scritto "Tonight only Muddy Waters e B.B. King al Beacon Theater di Manhattan", che è un teatro nero nerissimo, non a Harlem ma vicinissimo a Harlem. Salto in piedi, salto in macchina, corro come un pazzo per arrivare là davanti, sold out, tutto esaurito. Esaurisco in pochi secondi tutti i miei risparmi per comprare un biglietto da un bagarino e compro un biglietto di quarta fila. Entro, mi metto a sedere e dopo un quarto d'ora inizia ed entrano quattro ragazzi bianchi, tutti intorno ai 20 anni, quindi rimango un po' male, dico: ma questi chi sono? E invece erano una band fantastica di blues che fanno l'introduzione ed entra Muddy Waters. e io lo dico e non lo nego, svengo esattamente come le ragazzine che vedono i Beatles, cioè sono svenuto dopo 30 secondi di concerto e mi hanno portato in infermeria per tornare al mio posto al quinto sesto pezzo, perché l'emozione era troppa, impossibile fare foto perché mi tremavano ancora le mani. Però all'ultimo pezzo sono stato molto premiato perché è entrato Johnny Winter e hanno fatto Johnny B. Good insieme, era il mio idolo assoluto, a quel punto non poteva succedere niente di meglio e sono riuscito anche a fare le foto lì, quindi c'ho anche il ricordo fotografico, diciamo. Fantastico. Allora Giovanni, poi in realtà poi cioè, siamo due punti di vista diversi di vedere un concerto, io vado da critico, tu da fotografo e mi accorgo che spesso però il rapporto non è sempre idilliaco, in quanto comunque noi ci sediamo e abbiamo il nostro posto, il fotografo viene spesso là con la sua macchina, quindi fa rumore, si sposta e poi spesso notiamo che per esempio, non so, l'auditorium nei teatri, soprattutto nei posti più chiusi, più piccoli, i fotografi hanno esatto due pezzi per fare le foto e poi se ne vanno, quindi insomma non si riescono a godere neanche il concerto e quindi questa cosa sempre ci è rimasta un po' lì a noi. Ma qui hai scoperchiato una pentola complessa, perché questo è come è andata a finire, cioè nel senso che adesso la foto di musica funziona così e quindi non ci sono più i fotografi di musica, nel senso che c'è gente che va là, fa due canzoni perché deve portare a casa le foto e se ne va anche felice di andarsene, perché così non fa tardi, perché non ha nessun interesse a vedere tutto il concerto. Fortunatamente c'è ancora qualcuno che non la pensa così, diciamo, come me, e che quindi in qualche modo deve venire a vedere tutto il concerto, anche perché poi è ovvio che fotografando solo due canzoni si ha un'immagine che va bene forse per la pagina romana del Messaggero, per nulla togliergli, però diciamo non è poco profonda e poco approfondita, quindi lì diciamo che ognuno cerca di avere il suo rapporto col management, con l'artista, per avere qualche modo, per avere qualche pezzetto in più o qualche cosa di differente, perché sennò le foto che vengono fuori sono veramente povere, quindi... Ma infatti mi accorgo che spesso loro scattano proprio a ripetizione e poi magari sperando di trovare quella foto giusta e non cogliendo l'attimo, che in realtà dovrebbe essere... Dipende anche molto dagli artisti, capito? Perché ci sono degli artisti che nel corso di un concerto fanno talmente tante scene diverse e feeling diversi che serve assolutamente di fotografarlo tutto, per esempio Springsteen è uno di questi. Poi magari con un artista più statico, magari anche con le poche foto che si fanno all'inizio, si può portare via qualcosa di buono, però fondamentalmente è un uso barbaro, ecco, quello di far stare i fotografi per così poco tempo. T'ho detto, questo ha creato il fatto che poi la classe di fotografi di musica si è impoverita, perché la gente ha cambiato mestiere, però comunque il modo migliore è lavorare per gli artisti, però lavorare per i Rolling Stones per esempio non è facilissimo, diciamo. Che poi tu tra l'altro catturi gli artisti sia live che poi in posa, quindi si mettono, ed è una cosa completamente diversa, immagino. In posa le foto sono comunque concordate, gli artisti sono d'accordo, per cui diciamo, ecco, c'hai una grossa complicità con le persone fotografate, mentre invece con live dipende. Io per esempio gli italiani che seguo con live non è che vedo un concerto, spesso vedo 4, 5, ecco, 8 esatto, concerti interi, perché così c'hai il tempo di riprendere nella, insomma, in maniera seria e profonda tutto lo show, ecco. Ecco, allora direi anche di andare avanti, ci ascoltiamo B.B. King hai portato e quindi ce l'ascoltiamo subito, Why I Sing the Blues. I sing the blues. shining over me, and a lot more with the whip, and everybody wanna know why I sing the blues. Well, I've been around a long time, I've really paid my dues. I've laid in a ghetto flat, cold and numb. I heard the rats tell the bed bugs to give the roaches some. Everybody wanna know. Pure B.B. King sarà un artista che avrà visto numerose volte, immagino. Sì, sì, sì, B.B. King l'ho visto tante volte in tutte le salse, diciamo, dai tempi lontani a quelli vicini. Forse il ricordo più grosso che vorrei raccontare è uno degli ultimi, una delle ultime volte in cui l'ho visto, che ha suonato al Glastonbury, al festival che si fa tutti gli anni in Inghilterra, e lo hanno fatto suonare sul Pyramid Stage, cioè sul palco centrale, dove c'è una platea di media di 100.000 persone, 100-110.000 persone, e a me mi era sembrato un po' azzardato, perché comunque l'età media è bassa, cioè non era proprio l'artista più adatto, e invece è stato pazzesco. Lui già abbastanza, diciamo, provato, non stava male, però comunque era invecchiato, super dimagrito rispetto, era quasi irriconoscibile esteticamente, e ha iniziato a suonare, e dopo tre pezzi c'aveva 110.000 persone che pendevano dalla sua chitarra, e per un'ora e dieci non è volata una mosca. È stata una cosa pazzesca, come in due canzoni si è comprato 100.000 persone, dal quindicenne all'ottantenne che c'era in platea. Veramente commovente, una cosa indimenticabile, direi. Io pure l'ho visto una volta, devo dire, a Londra, e sono rimasto scioccato, una cosa che mi è rimasta impressa, veramente un concerto in un teatro che ricordo con grande emozione. Tra l'altro lo andai a incontrare nel backstage, una persona simpaticissima, affabile. Non ci scordiamo che questi sono tutti neri che sono nati nel sud, hanno preso il treno, sono andati a Chicago, non è che hanno avuto una vita, diciamo, molto agiata, quindi secondo me quello che l'origine da dove venivano e chi erano aiuta in questo, no? Insomma, assolutamente sì. Non hanno quel piglio da star impossibile dei tempi moderni. Impossibile, perché sono partiti da lontano, diciamo. With me, gone is my youth. I look in the mirror every day, and let it tell me the truth. I'm singing the blues. I just have to sing the blues. I've been around a long time. Yes, yes, I've really made some blues. Allora, il tempo passa veloce qua a Via dei Volsci. E sono tanti gli artisti che abbiamo, tra l'altro poi di tutti questi artisti praticamente ogni foto diventa un'icona, perché qua parliamo di Johnny Lee Hooker, parliamo di Miles Davis, ma anche comunque ho visto Ray Charles, anche Bob Marley nel 1980 si è riuscito a catturare, insomma. È vero. E qual è il segreto? Cioè il segreto sta nello scatto, nella post-produzione, nel, appunto tenendo conto che comunque sono dei personaggi e delle... Di post-produzione non c'era. Non c'è nulla, non beh. Diciamo manco il Commodore 64. Però no, voglio dire, il segreto più che altro era stare al posto giusto al momento giusto, diciamo, nel senso che soprattutto nel rapporto con gli artisti, quello più vicino, le vie per entrarci in contatto sono infinite, però diciamo, per esempio Johnny Hooker, che è quello che va adesso, Io sono stato super fortunato perché sempre in tempi lontani a San Francisco lui suonava nei club, per cui tu andavi nel club e l'ho sentito una settimana di seguito perché suonava nel stesso club, io sono là tutte le sere, l'ho sentito, e dalla terza sera andavo nel camerino a salutarlo e è nato un rapporto così dal nulla. Quindi dal nulla tu ti sei buttato e sì, cominciavi a seguirli? La quarta sera ho detto ma chi è questo che mi riempie di foto? Chi sto ancora? Quando sono andato a chiacchierare si è interessato alla questione. Alcuni così, alcuni, per esempio il pezzo che sentiamo è insieme a Miles Davis. Ecco, che è un personaggio. Un'altra storia, diciamo. Nel senso che lì si parla di personaggi che comunque vivono in un altro mondo, in uno Star System. Alla fine del pezzo lo racconto l'aneddoto con Miles Davis. Eh sì, ci vuole, ci vuole. E allora, Miles Davis con Johnny Luker, Coming to Town. Allora ci sentiamo un pezzo solo di Miles Davis che ci hai portato, così ci racconti l'aneddoto su Miles Davis che ci dicevi fa parte di un altro mondo, di uno Star System in qualche modo differente rispetto ai bluesmen che ci siamo ascoltati fino adesso. Ma sì, guarda, non so se lui definirlo proprio che fa parte dello Star System o comunque che era completamente fuori di testa, cioè nel senso che era, probabilmente entrambi, era, direi. Viaggiava in un altro mondo, però io, quello che raccontavo appunto è che quando è venuto, questo è successo a Roma invece, quando è venuto a Roma per una trasmissione che era Doc di GG Estero, io sono andato insieme a un amico, Luciano Vidi, fotografo anche lui, a chiedere se il permesso di fargli qualche foto posata, e lui ci ha risposto con un tono di voce che sembrava un assassino del Bronx, che guardando dall'altra parte, e noi ci siamo un po' spaventati, abbiamo detto ma che ci ha detto, con chi sta parlando, poi abbiamo capito invece che ci ha detto venite in camera mia in albergo che vi do un quarto d'ora, e quando ci siamo andati ci avevamo paura come alla sfida dell'OK Corner, perché e infatti si è rivelato vero, cioè siamo entrati nella porta già aperta e lui non ha detto una parola, cioè abbiamo fatto 10 minuti di foto, avrà detto 3 volte sì in tutto, e poi ci ha fatto un segno con la mano come dire è finito, potete andarvene, e noi quando siamo usciti abbiamo pensato ma appartiene a questo pianeta o viene da un'altra parte. E la domanda che ti volevo fare è com'era vestito Miles in quell'occasione? No, non era troppo, ecco. Non era tutto vestito di lamè come ai concerti o a petto nudo con la giacca aperta sola, era vestito circa normalmente. Eh sì, sono personaggi difficili, strani, anche Ray Charles immagino che aveva un bel caratterino. Cioè, secondo me la cecità lo aveva aperto, nel senso che chiaramente le persone cieche sono più diffidenti, cioè devono avere sempre qualcuno che ti introduce, però poi alla fine lì abbiamo fatto un vero servizio fotografico, abbiamo fatto le foto, ci ha ringraziato, c'ho anche la foto di lui che mi stringe la mano, però guarda dall'altra parte completamente la foto insieme e si rivolge dall'altro lato, però va bene, io fra l'altro di rato mi faccio fare autografi o foto insieme, però quello era un tributo assolutamente fondamentale. This rap is fundamental and my sound so wicked. A little taste of the beatbox sound with the backdrop of doo hop, and this is why we call it the doo hop. The doo hop. Okay. of MCs up in front of me. When I'm out, blow make the A wanna see my rhyme. Be shining on brothers like they flipping on they high beams. And when I just come through, you think you're bad, but somebody seen you climbing a tree like Jack B. Nimble, your mouth blow the trumpet off of A&M. Miles Davis' style is different, you can describe it as specific. He ripped rage and roll, no time for watching Andy Griffith. You can, all you want, go ahead. While he take the doo-hop and mix it with bebop, just like a maker English, you shop easy, Moby will cream you like the nougat. And usually we do our butts and smiles, wanna cool out, you can do that, Miles. Blow your trumpet, show the people this one is the doo-bop. Just digging that doo-bop sound, just digging that doo-bop sound. This one is the doo-bop sound. Just digging that doo-bop sound. E a proposito di artisti particolari dal caratterino, insomma, ce n'hai portato un altro che ben rappresenta il funk, il soul, insomma, James Brown. James Brown è un altro dipetto, diciamo. Nel senso, sì, la vicinanza del pezzo con quello di Miles Davis non è sbagliato, perché anche James Brown, quando ci si rivolgeva parlando, diciamo, non si capiva mai se era arrabbiato o se era contento, perché l'espressione era sempre quella arrabbiata comunque. Esatto. Sì, cioè, a parte la potenza esagerata dal vivo, che l'ho visto svariate volte, è stato un pezzo di vita da mettersi via. Però comunque anche lì, quando abbiamo fatto le foto, diciamo, lui, non so se ve lo ricordate, che gli colava tutto il trucco, per cui praticamente alla fine del concerto era una maschera di nero che gli colava addosso, però non si sarebbe mai, io speravo di fotografarlo in quella, esatto, in quello stato, ma non si sarebbe mai fatto fotografare. Quindi dopo il concerto ha fatto la doccia, si è cambiato, si è ritruccato, si è ritinto i capelli per poi fare il servizio fotografico, quindi diciamo fantastico, fantastico. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electrolyte to take us out of the dark. Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boy. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. Without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost and bitterness. E adesso passiamo alle voci femminili, a una voce femminile, quella di Aretha Franklin. Alla voce femminile. La voce femminile, con la L maiuscola. Una voce che tu non hai fotografato. No, no, in realtà è carina la storia, perché nella vita di un fotografo rock ti capita che ci sono delle persone che insegui per anni e che non vedi mai. E per me Aretha era stata così, cioè nel senso che non sono mai riuscito a vedere un suo concerto intero e ero quasi disperato dal... non riuscivo a vederla né a fotografarla, e invece è successo che in un concerto di Ray Charles, non mi ricordo dove, forse a Montreux Jazz, a un certo punto c'era lei come ospite, per cui senza saperlo in una sera ho finalmente coronato il mio sogno di fotografare Aretha Franklin per una sola canzone, però, quindi è rimasto un po' avvolto nel sogno tutto questo. Una cosa onirica. Senti, allora ne approfitto per chiederti anche un'altra cosa, che noi abbiamo fatto una puntata intera dedicata al Montreux Jazz Festival. com'è quella situazione? È la situazione, è vero? Sì, no, beh, io non ci sono andato tantissimo, però ci sono andato a vedere Prince, per esempio, che ci ho suonato spesso. Cioè, voglio dire, il Festival Jazz dove vanno tutti, dove succede tutto, per cui l'ambiente è molto ripulito, non è un ambiente... Beh, Svizzera, no? Sì, Svizzera, poi costa una fortuna i biglietti, per cui comunque il pubblico è un certo tipo di pubblico, però il livello medio delle esibizioni è esagerato e anche gli artisti lo sentono. Cioè, se vai a sentire Pat Metheny al Montreux Jazz Festival non è come sentirlo da un'altra parte, perché comunque tutti ci tengono particolarmente, quindi è una bella vetrina per tutti. Sì. Sì, assolutamente, è fantastico. E poi comunque pure quello è diventato un'istituzione. Adesso io non so dire il numero esatto di anni da cui c'è, però diciamo mi pare che abbiamo fatto il cinquantennale, sì, forse cinquantennale. Possibile, tra l'altro poi da quel festival è andata pure Smoke on the Water di Purple, perché insomma era quel casino che era andato a fuoco. Cosa non c'è successo? È successo un po' di Frank Zappa mi pare che suonava. Sì, tu hai fotografato pure Zappa? Sì, ecco, a proposito di personaggioni. Zappa, E chi è quello che invece ti manca, che avresti sempre voluto fotografare? Bella domanda. Hendrix. Alla fine Hendrix, cioè di tutti, anche tanti altri, però se potessi scegliere avere la macchina del tempo per fotografarne uno andando indietro, fotograferei Hendrix, non ci sono dubbi. Che peraltro ha suonato a pochi metri da casa mia a Roma, però io avevo 7 anni e quindi purtroppo non c'è stato verso. Non eri ancora pronto. E allora continuiamo con la tua selezione. L'abbiamo nominato prima, Ray Charles. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, E allora, da Ray Charles che ti sei visto dal vivo, qual è stato il tuo concerto della vita? Allora, quello che hai visto, non quello che avresti voluto vedere. No, vabbè, però a me non mi si può chiedere, perché io sono troppo springsteeniano. Per me il concerto della vita è per forza un concerto di blues. Ci hanno visti tantissimi toccanti super belli. E uno in particolare suo? Io per esempio ero stato a vederlo all'Auditorium Santa Sicilia da solo. Di Bruce, sì, da solo con la chitarra acustica. Sono sopra 200, quindi voglio dire, ho visto più di 200 show, quindi scegliere quale è il più bello. Sicuramente il 18 maggio, che è il mio compleanno del 2012 a Barcellona, è stata una delle serie più, diciamo, toccanti, però su 200 non è facile. E lui dà tutto veramente dal vivo, poi non si risparmia, vero? Un po' di più, nel senso che tu alla terza canzone, che va più o meno come il bis degli altri concerti, ti chiedi, ma le prossime 32-33 come fa? Cosa succederà? Perché alla terza è già come se fosse il bis di un concerto del Bon Jovi, capito? Per cui tu dici, poi che succede? E invece tranquillo, ti ci porta alla 36esima alle 2:15 del mattino allo stadio a Barcellona, quindi poi basta che ti capita, lo capisci. Beh, ci sono artisti comunque che riescono a andare, non sono tanti, perché di solito il concerto standard è un'ora e mezza. Guarda, a me, cioè, a me, con me di questo non ne vuoi parlare, perché secondo me non ce ne sono tanti, ce n'è uno. Cioè quella roba che vede i concerti di Bruce non si può vedere da nessun'altra parte. Poi ti ho detto, ho visto concerti, festival che sono durati 8 ore, gente che dà il tutto, però il singolo artista che fa 36 pezzi e che tu non c'hai il tempo di riprendere fiato fino a che non finisce, non ce n'è un altro. Anche, ti ho detto, anche i concerti, io sono andato in Africa, il concerto di Fela Kuti, che suonava. Che meraviglia! Ma dove? In Nigeria. Oh. In Nigeria, mi ci aveva portato ai tempi New Musical Express, con la giornalista del New Musical Express, è andato. Che roba, tipo, che iniziava alle 5 di pomeriggio e finiva a mezzanotte, capito? Erano dei riti quelli, non erano concerti. Era roba, cioè, sempre diverso. Sempre diverso. E adesso passiamo a un artista più recente, Joss Stone. Joss Stone, come mai hai scelto lei? Ma, cioè, considerando che è bella, buona, brava e simpatica, c'è convinto, già. Non lo so, che ci dovrebbe avere, perché no, però a parte gli scherzi, cioè, secondo me gli interpreti bianchi del repertorio nero, cioè, spicca sicuramente, perché c'ha una voce e un'interpretazione pazzesca. In più ha iniziato a un'età ridicola, cioè è saltata fuori, che c'aveva 16 anni. Infatti adesso uno dice, beh, sai, ormai è vecchiotta, sì, c'ha 30 anni. Ha 30 anni, però sono 12 che sta sulla cresta, diciamo, dell'onda. Sì. È super bella, nel personale anche super simpatica, cioè è una persona fantastica, gira a piedi nudi, suona sempre a piedi nudi, cioè, è veramente l'incarnazione della ce l'ha tutta, insomma, che vorresti vedere tutti i minuti e starci, anche direi quella per cui se facesse un cenno butteresti via le chiavi di casa e scapperesti con lei per qualsiasi lato del mondo, direi anche. E allora, purtroppo per radio non si può vedere, ma ce la possiamo ascoltare. Right to be wrong. Just leave me alone. me alone. You're entitled to your opinion, but it's really my decision. I can't turn back, I'm on a mission. If you care, don't you dare blur my vision. Let me be all that I can be. Don't smother me with negativity. Whatever's out there waiting for me, I'm gonna face it willingly. Got a right to be wrong. My mistakes will make me strong. Senti, dietro le quinte ci stavi parlando del backstage del concerto di Bob Marley a cui sei stato nell'80. Vabbè, adesso stavo raccontando del fatto che diciamo in generale i concerti che cadevano come proprio eventi biblici appunto negli anni 80, dove i media ti aiutavano molto poco a conoscere un artista e quindi poi la conoscenza diretta era pazzesca. Quello di Marley sicuramente il primo che ho visto, perché poi ne ho visti svariati altri, ma il primo che ho visto a Milano nel 1980 era stato una botta al cuore pazzesca. Poi fra l'altro grazie a Carlo Massarini ero entrato nel backstage dove c'è stata una mitica partita di pallone giamaicani contro italiani, vinta dai giamaicani che avevano tutti la canna in mano mentre giocavano e mi pare che vinsero 9-1 tipo, perché ci avevano un fiato comunque. Vabbè, era doping forse, però sì, forse c'era controproducente, forse al coso del doping, però insomma erano eventi che ti davano un colpo che ti durava, cioè ci rimanevi sotto per 2 settimane, capito? Senza meno. E allora mo ti devo fare la domanda da $1 milione, perché qual è il segreto per fare una foto, una bella foto proprio? Ma avere Bruce Springsteen davanti non vale. No, però poi non è vero, non è affatto vero. Ma mettiamola sul serio, cioè nel senso che secondo me una bella foto è il misto di quello che c'è davanti alla macchina con quello che c'è dietro, nel senso che poi alla fine la foto è una interpretazione della realtà però fatta dal tuo cervello, quindi purtroppo o per fortuna, dipende, ci casca dentro anche tutto quello che tu pensi della cosa che stai fotografando, di come è andata quel giorno, forse anche se il caffè che hai preso era buono o era cattivo. E quindi diciamo dell'empatia con l'artista, dell'empatia con l'artista 100 volte, però quello anche relativamente, perché insomma anche se fotografi pupo, però in quel momento ci devi un po' credere a pupo, perché se no la foto non ti può venire bene, quindi quello lo devi fare comunque. Certo, se è pupo o Prince c'è una differenza, io gli voglio bene a pupo, non è che gli voglio male, però voglio dire in generale questo è il significato. Secondo me appunto è coltivare parallelamente il fatto del mondo delle immagini che hai dentro di te e poi vedere quello che c'è fuori con occhi diversi, diciamo, secondo me è questo. E poi il motivo per cui capita spesso che la stessa cosa fotografata da fotografi diversi assuma aspetti, esatto, completamente diversi, no? Adesso c'è un mondo stereotipato di roba digitale tutta uguale, tutta fatta più fredda, no, poi con gli stessi obiettivi, con le stesse, ma tutto uguale, però diciamo la interpretazione dell'occhio di chi ci sta dietro conta sempre, anche con l'iPhone. Esatto, non tanto il mezzo, ma quanto metterci del proprio. Allora, Giovanni, noi ti ringraziamo. Noi ti ringraziamo per esserci venuti a salutare. E, per esserci venuti a trovare. E, per tutti gli aneddoti che ci hai raccontato. Ah, sì. E casomai ci riverrai a trovare quando esce il nuovo libro, il tuo molto nuovo libro su Bruce. Così prima del prossimo inverno verrò a pubblicizzare il nostro nuovo libro da maniaci. Però nel frattempo studiate un po', perché sennò non va bene. Studieremo Bruce. Esatto. Senti, vi ricordiamo anche il concerto, la serata di stasera al Cinema Palazzo. Assolutamente sì, perché per festeggiare il crowdfunding riuscito di Radio Onda Rossa per l'acquisto del nuovo ripetitore, questa sera il nuovo Cinema Palazzo. E vi ricordiamo anche un appuntamento live domani, Marcus Miller, Mr. Groove, insomma, sarà in città e quindi anche tu l'hai fotografato? Sì, però solo dal vivo, non ho mai avuto contatto diretto. Però pure lui sempre col cappello, sempre sì, insomma, sì, un bel personaggio da sentire. Profondi. Esatto. E allora, tra l'altro, bassista di Miles, quindi insomma, garanzia. E allora noi vi salutiamo, ci sentiamo giovedì prossimo alle Hawaii. rocking back and forth like Lightning Hopkins. If anybody's beat the sky, they tell them beat me up. So can I get a window seat? Hey. Don't want nobody next to me. I just want a ticket down to town to look around and to say touchdown. Energy, yes I do. Oh, I need someone to clap for me. I need your